Russia, il caso Navalny, veleno e veleni, Paciolla, l'altro caso che aspetta verità. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Russian opposition leader Alexei Navalny was poisoned by a military grade nerve agent, the same one used in an earlier attack on one of Putin's enemies. Noi vogliamo che ci siano tutte le risorse necessarie, concentrate e coordinate per fare luce sul caso di Mario. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. 16:09 minuti in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Naturalmente con me ci sono sempre Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi in regia a dettare la grammatica musicale di quest'ora insieme Paolo Corleone. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti per i due temi che vi propongo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Ci sono anche i social, Facebook, la pagina Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, Twitter, se amate cinguettare, i due account da tenere d'occhio, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Le regole per partecipare e alimentare il dibattito di Nessun Luogo Lontano, le ribadisco ancora una volta, ma oramai le conoscete, nonostante vi sia qualche ascoltatore un po' riottoso ad accettare queste regole. Sono semplicissime: non ammetto linguaggi sessisti, omofobi, razzisti, non ammetto il turpiloquio, per il resto critiche anche feroci ben accette e cercheremo di rispondere a tutti. Caso Navalny, dicevamo, perché da un caso di cronaca nera e politica, forse tutta interna alla Federazione Russa, si sta trasformando in un caso internazionale. E poi il caso di Mario Paciolla è un caso che grida la volontà di avere verità. Vi sono alcuni dettagli, che poi tanto dettagli non sono, che stanno emergendo ad opera soprattutto di una collega colombiana che quasi quotidianamente aggiorna sulle evoluzioni delle indagini. Cercheremo di fare il punto nell'ultima pagina di Nessun Luogo, non prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta direttamente in Libano, peraltro domani ricorre un mese esatto da quella disastrosa esplosione che ha messo quasi in ginocchio un paese già disastrato. Domani dedicheremo una puntata speciale, un approfondimento proprio a come il Libano sta cercando di reagire a questa ennesima tragedia che lo ha colpito. Però ieri vi davamo conto anche dell'attivismo della Francia, in particolare del suo presidente Emmanuel Macron, che in un mese, pensate, si è già recato ben due volte nella terra dei cedri. Ecco, Al Jazeera nella sua homepage, nel sito online, la versione in inglese che spesso consultiamo a dispetto di quella araba che molto spesso è, come dire, se schierata su posizioni politiche ben precise, quella inglese gode di una autorevolezza e di una neutralità decisamente diversa. Dicevo, rivela in anteprima quelli che sono i contenuti del piano che Emmanuel Macron ha presentato ai politici libanesi proprio per risollevare il paese. Peraltro è stata annunciata una conferenza di donatori a ottobre che si dovrebbe tenere proprio in Francia, un attivismo di Macron che i maligni dicono fa parte del retaggio coloniale e chi invece lo vede di buon occhio lo bolla come un genuino tentativo per aiutare Beirut. Di cosa è alla ricerca Macron per i libanesi? 20 miliardi di dollari di aiuti finanziari, una buona metà potrebbe arrivare da un programma del Fondo Monetario Internazionale e poi la seconda metà invece è una serie di donatori internazionali. In più però mancano 5 miliardi, pensate, per la ricostruzione di Beirut e l'assistenza umanitaria. Domani in diretta proprio da Beirut vi faremo sentire la voce di chi sta ricostruendo materialmente le case dei libanesi. Macron ha poi spinto sull'acceleratore, ha quasi imposto, e questo ha fatto storcere un po' il naso, se volete, a chi non ama la politica neocolonialista francese, così da molti viene definita, ha imposto un termine, un ultimatum per la formazione del nuovo governo, 15 giorni, e soprattutto un governo che deve abbracciare delle riforme anticorruzione, quella corruzione che la piazza libanese ormai da mesi ha tentato di scalfire a suon di slogan. Veniamo alla bozza delle riforme che secondo Al Jazeera potrebbero essere sul tavolo. Un piano per il controllo della pandemia da Covid-19 con un sostegno alle persone più vulnerabili. Il rafforzamento della rete di sicurezza sociale. Pensate che è un paese in cui la moneta è stata svalutata tantissimo, le banche sono al tracollo, praticamente la pensione non è assolutamente garantita. il lancio di una gara d'appalto per la ricostruzione del porto. Tutti voi immagino avrete visto quelle terribili immagini e c'è da, veramente da rifare quello che è uno dei polmoni che consentono l'osmosi del Libano con gli altri paesi e col Mediterraneo. E poi una legge sul controllo dei capitali e il controllo completo dei conti della banca centrale. Per anni, per decenni, forse le amministrazioni finanziarie libanesi sono state un vero e proprio colabrodo, spesso anche oggetto di critiche per la estrema opacità con quale venivano gestiti i flussi finanziari. Staremo a vedere due cose. Primo, se Macron riuscirà davvero a dare impulso a questo piano e secondo, se non vi siano velati appetiti neocolonialisti su quella che era l'ex colonia. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. Ve lo ricordo, i temi principe di questa puntata in nessun luogo. Il caso Navalny, tutti puntano il dito verso Mosca, ma sarà davvero così? Ne parleremo con i nostri ospiti. E poi il caso Mario Paciolla è un po' una delle nostre missioni. Fine stagione della scorsa stagione, appunto, di Nessun Luogo è Lontano, ma anche per quest'anno continueremo a battere duro affinché non si spenga l'attenzione, non si spengano i riflettori sul caso del funzionario ONU che, come direbbe qualcuno, è stato suicidato. Andiamo però in Afghanistan. Tolo News, lo sapete, forse la più importante emittente televisiva anche in lingua inglese dell'Afghanistan. Noi spesso ospitiamo i loro coraggiosi reporter. Dà la notizia del rilascio completo dei prigionieri talebani da parte del governo di Kabul, ad eccezione di alcuni. Quali? Beh, quelli sui quali sostanzialmente Francia e Australia hanno posto il veto. Si tratterebbe di comandanti di altissimo rango, appunto, della compagine talebana, e che qualche mal di pancia farebbero venire. L'amministrazione francese e australiana, entrambi i paesi sono stati impegnati in prima linea anche in Afghanistan. Intanto si fa sentire il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale afghano, Javid Faisal, ha detto: il governo ha rilasciato gli ultimi 400 prigionieri, gli sforzi diplomatici proseguono, ci aspettiamo che i colloqui con i talebani inizino al più presto. Dall'altra parte, fonti vicine ai talebani confermano il rilascio di 5.000 prigionieri, promettendo che i talebani liberati non torneranno sul campo di battaglia. Peraltro sapete, ricorderete, l'abbiamo raccontato tante volte, che questi colloqui sono sostanzialmente l'esito dei colloqui di Doha, colloqui di pace tra talebani e Stati Uniti. I talebani si sono impegnati sostanzialmente a non dare più rifugio a qualsivoglia forma di estremismo, jihadismo, compreso Al-Qaeda o Stato Islamico. Però è chiaro che il rilascio dei prigionieri preoccupa la maggior parte degli analisti e degli osservatori. E poi Paolo Corleone, è il momento di andare negli Stati Uniti. Get on the ground, man. No. Get on the ground. Put your hands behind your back. Behind your back. Yes, don't sir. Move. Yes. Don't move. Yes, chill sir. Out, man. Don't move, all right, man? Sono state diffuse solo oggi, quello che avete sentito è un breve estratto, le immagini video riprese dalla bodycam di un ufficiale di polizia. Ormai sapete che in molte polizie del mondo si utilizzano, per tutti i poliziotti che sono sul campo, delle immagini che registrano automaticamente, dal punto di vista dell'agente stesso, quello che accade. Ancora una volta violenza ai danni di un afroamericano sotto arresto. L'episodio è avvenuto lo scorso 23 marzo, solo adesso la famiglia ha deciso di diffondere il video. La vittima, Daniel Prude, 30 anni, di Chicago, appena arrivato a Rochester per una visita con la famiglia. La polizia era intervenuta su chiamata della famiglia 911, il fratello era scomparso, fratello che peraltro soffriva di disturbi mentali. Infatti il video mostra l'uomo correre nudo per strada, però quando i poliziotti intervengono gli ordinano di mettersi a terra, lui obbedisce, mette le mani dietro la nuca, però è molto agitato, urla mentre viene ammanettato e poi sostanzialmente gli viene calata sul capo una sorta di maschera così definita antisputo, che in tempi di Covid evidentemente può essere molto utile per preservare la salute degli agenti. Però Prude supplica di togliere quel cappuccio, dice che non riesce a respirare. Allora a quel punto un agente sbatte la testa in terra, con due mani la tiene premuta contro l'asfalto, gli urla di smetterla di sputare e poi però le urla dell'uomo si trasformano in gemiti sempre più affievoliti, mentre un altro agente gli mette un ginocchio sulla schiena. Poi le scene portano sostanzialmente all'uomo che si immobilizza, privo di conoscenza, morirà in ospedale la settimana successiva. La perizia di un medico legale parla di omicidio causato dalle complicazioni di un'asfissia dovute a coercizione fisica. Ovviamente anche questo episodio ha scatenato l'ira dei movimenti Black Lives Matter, subito in campo per chiedere cosa? Licenziamento e incriminazione degli agenti. Stiamo raccontando tante volte in queste settimane in Nessun Luogo Lontano quello che sta accadendo negli Stati Uniti. È un l'ennesimo violento tassello che sicuramente andrà a infiammare non soltanto il dibattito civile ma anche quello politico. E poi Hong Kong, una notizia forse passata un po' sotto traccia, ma è molto importante perché uno dei tribunali dell'ex colonia britannica ha assolto il magnate dei media, ma anche attivista pro-democrazia Jimmy Lai, dalle accuse di intimidazione. L'episodio risaleva al 2017, Lai è accusato di aver usato un linguaggio osceno contro un reporter dell'Oriental Daily News, che è uno dei principali concorrenti invece del tabloid Apple Daily, di proprietà di Jimmy Lai stesso. Assolto da questa accusa, però Jimmy Lai adesso se la deve vedere ancora una volta con la giustizia hongkongese, perché il 10 agosto era stato arrestato per sospetta collusione con forze straniere. In base a cosa? A quella nuova legge sulla sicurezza che tante volte vi abbiamo raccontato la scorsa stagione. La longa manus di Pechino promette una stretta sulle libertà. Jimmy Lai, strenuo alfiere delle libertà democratiche a Hong Kong, probabilmente ne pagherà pegno, perché assolto da questa accusa, diciamo, intimidazione, quella sulla sicurezza nazionale rischia di essere davvero, davvero pesante. Questi i nostri dossier internazionali, fatti notizie dei quattro angoli del globo che diventeranno approfondimenti di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però è ora di parlare del caso Navalny. Probably they didn't use a lethal dose. Probabilmente non hanno utilizzato una dose letale in modo da ucciderlo immediatamente. Una dose letale di Novichok sarebbe 1 milligrammo. Questa quantità basta per uccidere una persona. 1 grammo ucciderebbe migliaia di persone. 1 gram is enough to kill 1,000 people. La voce che avete appena sentito è quella di Vil Marzyanov, è uno scienziato, è stato intervistato dalla CNN qualche ora fa. Perché ha parlato Vil Marzyanov? Intanto perché è un chimico, in secondo luogo ormai vive negli Stati Uniti, è sposato con una donna americana, ma all'epoca dell'Unione Sovietica era il capo tecnologia e contro intelligence sostanzialmente del KGB, in particolare di quella divisione che si occupava di sviluppare le armi chimiche e batteriologiche. È stato un uomo che ha svelato come venissero prodotte armi in grado di avvelenare i nemici, soprattutto sul campo di battaglia. In una lunga intervista e lunghe dichiarazioni, ma già a partire dal caso Skripal 2018 in Inghilterra, lui e ex spia russa e la figlia Yulia furono contaminati probabilmente dallo stesso agente benefico. Questo Mirzayanov si dice: mi sento profondamente in colpa per quello che ho fatto, per gli studi che ho messo a disposizione al regime sovietico. Si pensava di sviluppare armi per il campo di battaglia, non certamente per compiere omicidi mirati. Se verrà confermato, come qualcuno urla, qualcun altro sussurra, che il tentativo di avvelenamento di Alexei Navalny, dissidente russo, uomo forte, è tutto d'un pezzo, e uno che ha rischiato parecchio, continua a rischiare, ma fa tuonare la sua voce contro Vladimir Putin, ebbene, se verrà confermato che dietro questo tentativo di avvelenamento c'è davvero Mosca. Non si spinge così in là il governo tedesco, ma sicuramente pone dei punti fermi, e ve li faccio sentire dalla voce della cancelliera Angela Merkel. Alexei Navalny è stato vittima di un attacco tramite un agente nervino del gruppo Novichok. È un veleno che può essere identificato inequivocabilmente attraverso i test. È quindi evidente che Alexei Navalny è vittima di un crimine. Volevano metterlo a tacere e io, assieme a tutto il governo tedesco, condanno con forza questo genere di azioni. Che cosa sta accadendo? Quello che era un caso inizialmente di cronaca nera, cronaca russa, un caso che poteva diventare l'ennesimo caso di dissidente politico perseguitato, un tentativo di omicidio, si sta trasformando rapidamente in queste ore, ve lo assicuro, anche a leggere le dichiarazioni, fra pochissimo ve ne darò conto, perché ci si è messa la Gran Bretagna, ma anche Lukashenko, che ha appena dichiarato qualcosa, non ve lo anticipo, ve lo dico tra pochissimo. Fatemi dare il buongiorno e ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, anche Antonella Scotto, il Sole 24 Ore. Buongiorno Antonella. Buongiorno. Che da anni osserva e scrive delle vicende russe proprio sul nostro quotidiano, ma anche Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice di ISPI ed esperta proprio, fra le altre cose, di Russia. Tafuro, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Salve. Allora, Antonella Scott, parto da te per quello che è l'aspetto prettamente giornalistico e di cronaca. Innanzitutto la risposta che è arrivata da Mosca rispetto a queste accuse che stanno proliferando ormai da più parti, piuttosto elusiva, forse non poteva essere altrimenti. Il Cremlino respinge ogni accusa, l'agenzia russa Interfax ha rilasciato un comunicato dove si dice: la Russia è pronta per un'ampia cooperazione con la Germania per chiarire le dinamiche dell'incidente. Peskov, invece, portavoce di Putin, dice di non vedere motivi per eventuali sanzioni e dice: sceglierei le parole con attenzione quando si parla di puntare il dito contro lo Stato russo, non ci sono accuse al momento, non c'è motivo per incolpare il Cremlino. Antonella Scott, risposta, come dire, di prassi, o c'è qualcosa tra le righe forse che dovremmo leggere e capire meglio? Sì, dunque, sicuramente questa è la fase, così come è avvenuto per il caso Skripal o anche per la crisi ucraina, cioè la fase delle accuse, delle contraccuse, delle verità che ognuno interpreta come vuole. Quindi andremo avanti i giorni con Mosca che da una parte si dice, come ha detto ieri Peskov, pronta a cooperare a collaborare con il governo tedesco, e poi però in realtà questa cooperazione, questa collaborazione, questa apertura non c'è, e c'è invece appunto c'è il respingere qualunque indicazione che la Russia possa essere dietro all'attacco a Navalny, e l'avvertimento appunto come quello di oggi invece di Peskov, avvertimento ad altri paesi a non arrivare a conclusioni affrettate, perché non c'è, dal secondo il loro punto di vista, nessuna base per accusare lo Stato russo. E poi ci sono anche le dichiarazioni anche più surreali, come quella di Lugovoi, che Lugovoi, ricordiamolo, sì, è oggi un deputato, però per la giustizia britannica è il responsabile dell'assassinio, della morte di Litvinenko, invece che venne avvelenato, sì, a Londra nel 2006. E poi oggi Lugovoi dice che non si stupirebbe, che non esclude, anzi è sicuro che Navalny sia stato avvelenato una volta arrivato a Berlino, oppure il capo dei servizi di intelligence esterna russi, Narishkin, che parla di provocazione dei servizi occidentali. Quindi è davvero la verità la verità della Russia, che è totalmente opposta alle accuse in questo momento tedesche, sì, e quindi un dialogo tra sordi da cui sembra impossibile si possa riuscire ad arrivare a un punto di incontro. Lo zoom affidato sulla Russia, affidato a Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, che ben conosce quella realtà. Adesso il grandangolo lo mettiamo invece con Eleonora Tafuro Ambrosetti di ISPI. Dicevo, con le prese di posizione tedesche, lo citava Antonella Scott, ma anche della Gran Bretagna, le agenzie stanno battendo prese di posizione piuttosto che alzano i toni, evocano addirittura ritorsioni severe. Sto leggendo in diretta con voi, un portavoce di Downing Street ha evocato in particolare oggi conseguenze severe per chiunque sia trovato responsabile, mentre intanto il ministro degli esteri Dominic Raab ha sentito il collega tedesco Heiko Maas per concordare le reazioni. Boris Johnson ha detto: è oltraggioso l'uso di armi chimiche vietate contro Navalny, ha assicurato l'impegno del Regno Unito perché giustizia sia fatta. Londra non sta accusando direttamente il Cremlino, però il portavoce del premier Tory britannico non esclude l'ipotesi di nuove sanzioni contro la Russia. Eleonora Tafuro, questo caso, ci sono stati altri avvelenamenti, altri come dire, coltelli contro i dissidenti russi, ma sta diventando un caso internazionale a tutti gli effetti. Chi ci guadagna di più e chi ci perde di più dall'internazionalizzazione del caso Navalny? Beh, decisamente ci sono stati altri casi di avvelenamento in passato, però la figura di Navalny, al contrario per esempio di quella di Skripal, è una figura conosciuta benissimo sia in Russia che in Occidente. Si tratta del politico al momento più popolare in Russia, il secondo per popolarità dopo Putin, secondo i sondaggi, e si tratta anche di una figura molto molto chiacchierata anche dai media occidentali, proprio perché è una figura complessa ma molto importante. Sicuramente il fatto che sia stato, diciamo, avvelenato, quindi probabilmente i medici tedeschi dicono che sopravviverà, però sicuramente subirà delle conseguenze molto molto severe da questo attacco. è un tentativo di lasciare il movimento di protesta russo, molto attivo adesso soprattutto nello Stremo Oriente, a Khabarovsk, senza una guida, perché volente o nolente Navalny è diventato proprio il capo dell'opposizione non sistemica in Russia, cioè di quell'opposizione che non trova una rappresentazione nella Duma russa. Sicuramente ci saranno delle conseguenze, adesso si sta discutendo di sanzioni, ma si sta discutendo soprattutto di bloccare il progetto Nord Stream 2, che è un progetto che la Germania voleva fortemente, quindi insomma è un progetto che avrebbe anche delle conseguenze economiche probabilmente gravi anche per la Germania, però è una conseguenza che insomma uno è lecito aspettarsi dopo un attacco del genere. Certo. L'ultima domanda per Leonora Tafuro prima di lasciare il suo lavoro, invece Antonella Scotta chiederò di farci compagnia ancora subito dopo la pausa. Fra l'altro vi faremo sentire anche la voce di un reporter, il caporedattore di Novaya Gazeta, che ha una tesi con una serie di dettagli che sono estremamente importanti per meglio comporre il puzzle. Un puzzle, dicevo, sempre più internazionale, che però vede una federazione russa sempre più distante dall'Europa. Sembra che questo caso sia quasi un detonatore, un acceleratore, quasi a creare una faglia, no? Nel continente eurasiatico, con Mosca che si allontana inesorabilmente. Se davvero il gasdotto fosse messo in sospensione, peraltro quasi finito, se davvero anche la Gran Bretagna iniziasse a proporre nuove sanzioni, forse una Mosca sempre più lontana. E Leonora Tafuro, in realtà diventerebbe un vero e proprio incubo per Vladimir Putin, se così fosse. Certo, e tra l'altro c'è anche un grosso dibattito sull'efficacia delle sanzioni, insomma la risposta occidentale all'annessione della Crimea, quella di imporre sanzioni, è stata molto, molto discussa anche in ambito accademico, perché proprio non c'è una prova evidente dell'efficacia di questo metodo. Sarebbe sicuramente un altro episodio nella saga che vede la Russia e l'Occidente allontanarsi sempre di più. Non è un problema soltanto per la Russia se questa relazione continua a deteriorarsi, è un problema anche per l'Europa, insomma dobbiamo necessariamente tener conto dell'interdipendenza economica tra la Russia e l'Europa, e questo effettivamente è un problema per entrambi, soprattutto per alcuni stati in Europa come appunto la Germania. Non c'è dubbio, e peraltro a questo è legato anche il caso, diciamo, bielorusso, che in queste ultime settimane sta tenendo banco. Intanto grazie mille a Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice ISPI, esperta di Russia. Buona giornata, buon lavoro. Antonella, stai con me, andiamo a sentire come stanno reagendo le borse agli ultimi eventi, anche internazionali, e poi riapriamo la discussione. Vi proporrò un ritratto, chi è Alexei Navalny, e poi la voce di Novaya Gazeta. Quei Cruciani, ultimi giorni, scroccate le ultime cene che poi si riparte a bomba. Parenzo, metti via pannolini, biberon, circoncisioni varie, che adesso si riparte alla grande. Perché la Zanzara non è una trasmissione, è uno stile di vita. Non capite un cazzo. Giuseppe Cruciani, David Parenzo, Radio 24. Fra poco di nuovo in onda. Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri, perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24. Puoi tenere la velocità che vuoi, puoi fermarti quando vuoi, è pura libertà. E poi, mentre pedali, hai la possibilità di ritrovare la tua creatività. Mezzo silenzioso, pacifico. Secondo me la bici sarà quello che forse un giorno ci salverà. Si sente l'aria addosso, sembra un po' di volare. Libertà, benessere, ma anche viaggio, divertimento, mobilità, tecnologia e impresa. Sono tante le storie che ci racconta la bici e noi torniamo ad ascoltarle insieme a voi ogni domenica alle 16 su Radio 24. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto con la ruota libera all'interno di Passione Domenica. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Il caso Navalny, veleno e veleni, è il caso di dire, a sentire e a leggere anche le accuse, le controaccuse che la comunità internazionale ormai si sta lanciando da una parte all'altra del continente eurasiatico. Vi davo conto delle reazioni tedesche, di quelle della Gran Bretagna. È intervenuto anche il controverso presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Sto leggendo un'ANSA. Sostanzialmente Lukashenko sostiene di avere, grazie ai suoi servizi di sicurezza, l'intercettazione e la registrazione di una telefonata tra Berlino e Varsavia che dimostrerebbe che l'avvelenamento dell'oppositore Navalny è una falsificazione. Non c'è stato l'avvelenamento, ha detto Lukashenko, e l'ho detto incontrando a Minsk il premier russo, lo hanno fatto in modo da scoraggiare Putin dal ficcare il naso negli affari bielorussi. Lukashenko ha detto che consegnerà la trascrizione di questa presunta telefonata alle forze di intelligence russe. Un po' di ascoltatori al 349-238-6666, prima di tornare da Antonella Scotta, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia. Ma se i servizi segreti russi avessero voluto farlo fuori, scrive Matteo, non avrebbero fatto meglio a creare un incidente e tentare di ammazzare uno col veleno e a rischio di insuccesso, con in più il rischio di attirare addosso l'attenzione internazionale. Ma proprio quella sorta, quella strana ambiguità, quella firma fatta con l'inchiostro simpatico che si vede e non si vede, che allude e non dice esplicitamente, forse Antonella Scott è proprio una delle chiavi anche per capire come si sarebbe, si condizionale sempre d'obbligo, mossa Mosca contro questo dissidente. Non so se sei d'accordo. Sì, sì, hai proprio ragione Giampaolo, perché questo forse è una delle interpretazioni più inquietanti, però è vero che ci sono tantissimi naturalmente punti da chiarire, tantissime cose che ancora non ci si riesce a spiegare, però il fatto che chi ha voluto questa operazione contro Navalny non si curi assolutamente delle conseguenze, certamente non sono così sprovveduti da non aver immaginato che parlare che Novichok, oltretutto ricordiamo che appunto che Navalny poi è stato mandato a Berlino, quindi sì, era chiaro che si sarebbe arrivati a capire con che cosa era stato avvelenato. Sanno benissimo che le accuse sarebbero partite verso Mosca e che si sarebbe tornati a parlare di sanzioni, come appunto sta avvenendo. Quello che secondo me è appunto lo scenario più preoccupante è che questo sia uno scenario che è voluto da chi ha voluto questa operazione, da chi l'ha organizzata. Sì. Poi si parla sempre di Putin, perché Putin è comunque la facciata, ma dietro di lui ci sono insomma i servizi a cui probabilmente fa comodo, o comunque non interessa che si crei una nuova crisi, che trovo che sia davvero preoccupante, perché se pensate non è ancora minimamente stata, non era ancora stata trovata una soluzione alla crisi ucraina, sì, ancora non si sperava in un processo di riavvicinamento, di immaginare che un giorno si sarebbero potute togliere le sanzioni. Ora ci troviamo di fronte a una nuova crisi ancora più grave perché sarà molto difficile a questo punto tornare indietro. Io penso che si rischia davvero di allontanarsi, come dicevate prima, la Russia e l'Europa si allontaneranno ancora di più, e appunto e poi c'è anche il fattore Bielorussia. Anche questo mi sembra molto preoccupante, perché nel momento in cui di nuovo torneremo a parlare di altre sanzioni, un ulteriore elemento per cui Mosca si sentirà isolata, a quel punto non avrà freni, non si farà più nessun problema a fare quello che ha intenzione di fare in Bielorussia, quindi è davvero una crisi di cui non riesco a immaginare il fondo. È quella che stiamo cercando di raccontarvi qui a Nessun Luogo Lontano con l'aiuto di Antonella Scott, Sole 24 Ore, che ben conosce quelle realtà, quei paesi e quelle dinamiche, e nelle sue parole un oscuro presagio che questa crisi, che già si sta ingigantendo, possa ulteriormente ampliarsi. Ed è utile ricordare, Antonella, che poi tutto questo, le sanzioni, l'isolamento della Federazione Russa, avranno ricadute su una popolazione che è già provata dal Covid-19, dalla recessione economica. La Russia non gode certamente di buona salute, a dispetto, no, di questa immagine molto muscolare che Mosca vuole dare all'esterno. Qua raccontiamo, Antonella, anche grazie a te, la grande politica internazionale, ma poi ci sono paesi, ci sono società civili, ci sono cittadini, abitanti, e sto pensando, no, alla Russia più profonda, magari più depressa, che soffre anche le conseguenze di queste schermaglie politiche che noi cerchiamo di raccontare. E di questo naturalmente ti ringrazio. Antonella Scott, Sole 24 Ore, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Putin non c'entra, bensì è la criminalità che tiene in ostaggio anche lui. In realtà, dietro questo stringato messaggio, che sembra una tesi molto provocatoria da parte di un ascoltatore, ho letto quella analisti internazionali che dicono: attenzione, perché leggere la, come dire, i meccanismi di potere e attribuirli inequivocabilmente ed esclusivamente solo a Vladimir Putin è assolutamente errato. Vi sono correnti anche all'interno dell'amministrazione e dei servizi segreti che potrebbero, peraltro con un taciuto beneplacet proprio del Cremlino, condurre a volte operazioni che magari qualche salto sulla poltrona, sulla sedia, preferite, come preferite voi, a Vladimir Putin lo fanno fare. Qualcun altro si spinge più in là: lo hanno avvelenato i servizi occidentali per destabilizzare la Russia. E qua per oggi, gentili ascoltatrici e ascoltatori, mi fermerei, nel senso che se rincorriamo la tesi più avvincente e più intrigante entriamo davvero nella fiction, come fa un'ascoltatrice. Tra quanto darete la colpa a Trump? No, questa puntata sinceramente non ce la sentiamo di farlo. 349-238-6666, sempre nell'alveo del buon lessico, che è quello che ci piace, la forma e anche il contenuto, per alimentare il dibattito. Caso Navalny, veleno e veleni, una Russia sempre più distante dall'Europa. Ma chi è Alexei Navalny? Sentite il suo profilo in 90 secondi. Ви знаете, вот в детстве у вас была лыжная шапка. Митинг сегодня называется «Отпускай». Parzialmente cieco da un occhio dopo che un manifestante filogovernativo gli ha versato addosso dell'acido, già sfuggito a un tentativo di avvelenamento nel 2019, Alexei Navalny, 44 anni, è oggi l'oppositore di Putin più noto all'estero. Da anni Navalny si concentra su un messaggio preciso. La corruzione diffusa a tutti i livelli in Russia è il risultato delle azioni di Putin e dei suoi oligarchi riuniti nel partito Russia Unita. La definizione «un partito di ladri e criminali» diffusa dall'attivista sui social è diventata di uso comune. Alexei Navalny acquista popolarità nel 2006 con un blog che denuncia la corruzione governativa e gli intrecci tra il Cremlino e il mondo affaristico, ma diventa famoso solo nel 2011. Dopo le elezioni parlamentari e le accuse di brogli, a Mosca scendono in piazza oltre 6.000 persone. Tra gli arrestati c'è anche Navalny, che in quel momento, secondo molti analisti, smette di essere un attivista online e diventa una vera figura politica. Dopo vari passaggi in partiti di centrodestra, nuove proteste e nuove denunce anticorruzione online, Navalny fonda il suo movimento, il Partito del Progresso. Si candida alle elezioni, prima come sindaco di Mosca e poi come presidente, ma viene escluso dalle liste dei candidati ufficialmente per ragioni amministrative. Arrestato più volte per le proteste e accusato di corruzione, ha sistematicamente accusato il governo russo di tentativi di screditarlo, fino all'avvelenamento avvenuto il 20 agosto scorso. Forse erano un paio di secondi in più di 90 secondi, ma abbiamo provato a sintetizzare la valenza e il peso anche di questa figura, anche per rispondere ad alcuni ascoltatori che giustamente cercavano di concretizzare il, come dire, il ritorno elettorale di una figura come Navalny attorno al 2%, ma attenzione, perché è molto conosciuto in Russia, è molto conosciuto all'estero. Quell'aiuto, quel ponte aereo medico che è stato fornito dalla Germania, lo ha trasportato in questa clinica di Berlino, ha immediatamente internazionalizzato questo caso, e su questo non ci piove, come è anche vero, come sottolineava Antonella Scott, che è impossibile che casomai fossero stati i servizi, magari un'ala deviata dei servizi segreti russi a farlo, non potessero immaginare che gli eventi avrebbero preso questa piega. Vi ho promesso che vi farò sentire la voce di Nikita Kondratiev, caporedattore della Novaya Gazeta, dirà delle cose molto molto interessanti, per cui un consiglio: adesso è la viabilità, ma state l'ascolto. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati. L'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, il caso Navalny, poi parleremo anche pur sinteticamente del caso Paciolla. Come sta reagendo il pubblico russo all'avvelenamento di Navalny? È vero che questo ruolo del dissidente russo è iperamplificato dai media dell'Unione Europea, dell'Occidente, quindi per seguire quello che sussurrano alcuni ascoltatori in realtà conta meno del 2 di picche e quindi in realtà questo ruolo viene ingigantito. Sentite cosa ne pensa Nikita Kondratiev, caporedattore di Novaya Gazeta, inutile nascondercelo, quotidiano di opposizione, ricorderete tutti la Politoska, è uno, insomma, è un media che va a muso duro molto spesso anche contro il Cremlino. Sentite. So yeah, the public reaction on this case is of course split, like in every case. La reazione del pubblico è contrastante. I media, le testate e poi i canali Telegram vengono continuamente inondati di teorie complottiste, come ad esempio la tesi secondo la quale Navalny sarebbe stato avvelenato dalla Germania dopo essere stato trasportato all'ospedale Charité di Berlino, e così via. Il punto è che le stesse voci, punto per punto, si erano diffuse quando i britannici resero noto che Sergei Skripal era stato avvelenato col Novichok. Oggi lo Stato punta molto su questi canali e cerca di far passare tra i cittadini che l'intera questione, fin dall'inizio, si spiega con le cattive condizioni di salute di Navalny. Ora, il pubblico russo, più conservatore, ha più possibilità di credere a questa versione dei fatti. Inoltre, l'opinione pubblica più liberale ritiene che Alexei Navalny si fosse allontanato dal dibattito politico mesi prima del suo avvelenamento. Su questa percezione gioca un altro caso, quello di Dmitry Rogozin, un giornalista, portavoce dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, che oggi è in carcere con l'accusa di aver rivelato segreti di Stato alla NATO. Navalny aveva attaccato Rogozin, lo aveva accusato di non essersi comportato da giornalista e di essere corrotto proprio come tutti gli altri. Politici liberali e di opposizione hanno criticato aspramente Navalny per questo suo atteggiamento. E adesso, quando all'improvviso qualcuno prova a ucciderlo e lo riporta al centro della scena, il governo russo ha gioco facile ad affermare che l'avvelenamento è stato un'idea dello stesso Navalny e della sua fondazione per concedergli una seconda vita politica. D'altra parte, dato che alle elezioni regionali Navalny ha denunciato con successo molti funzionari corrotti, ed è sempre attuale, non si può dire che l'Unione Europea e l'Occidente stiano esagerando il suo ruolo sulla società russa. Gli avvelenatori hanno trasformato di nuovo Navalny in un simbolo del movimento di opposizione russo. E non è la prima volta. Molte altre figure di opposizione sono state assassinate in maniera simile, come la nostra giornalista Anna Politkovskaya, Yuri Chevorchin, Boris Nemtsov e altri. Tutto quello che sta accadendo a Navalny in questo periodo lo pone esattamente in un ruolo simile a quello di questi personaggi. Dopo che Putin ha approvato la riforma costituzionale, che potrebbe mantenerlo al potere per sempre, l'opposizione più dura era rimasta quasi silenziosa. Ma adesso hanno un simbolo per il quale combattere. E per essere chiari, Navalny non è un ex spia come Skripal o altri. In questo momento penso che abbia molto più sostegno di qualsiasi altra figura anti-Putin che sia mai stata attaccata in Russia. Sono tasselli importanti quelli che aggiunge Nikita Kondratiev, caporedattore di Novaya Gazeta, che ha ricordato e ha sottolineato come il ruolo di Navalny in questo preciso momento storico per la Federazione Russa e per i rapporti di Mosca con l'intera Unione Europea possa assurgere anzi a un valore simbolico molto molto più alto. Da qui l'importanza di questa vicenda, di questa storia che continuiamo naturalmente a raccontare. Questa era la prima pagina lunghissima di Nessun Luogo Lontano, Veleno e Veleni, il caso Navalny. Poi però c'è un altro caso che ci sta particolarmente a cuore. Andiamo in Colombia. Non c'è stata da subito chiarezza e abbiamo paura che si palesi un caso Regeni 2. Non so chi è il responsabile della missione, non so come funzionano le cose di loco, ma ripeto, questa gente necessariamente ha contatti anche, diciamo, con i gruppi illegali che sono presenti sul territorio. Se seguiamo l'ipotesi assassinio, di solito questi gruppi non hanno bisogno di camuffare il loro intervento. Per me la responsabilità delle Nazioni Unite è grandissima. Se lui avesse ricevuto delle minacce, molto probabilmente le avrebbe condivise con i colleghi. Probabilmente è filtrata, chissà, la notizia che il tipo sarà lamentato o che aveva detto qualcosa. Lo avete sentito anche dai titoli, il caso di Mario Paciolla, funzionario delle Nazioni Unite in Colombia, trovato morto il 15 luglio, stava lavorando a un dossier, fra gli altri molto molto importante, cioè la pace, i colloqui di pace, il riavvicinamento tra le FARC e il governo colombiano, autorità colombiane che hanno immediatamente bollato la morte del giovane napoletano come caso di suicidio. Nessuno ci ha mai creduto moltissimo per la modalità, per le telefonate allarmate che aveva fatto ai familiari e per tutta una serie di colloqui che aveva avuto anche col suo diretto superiore dell'ONU. Mentre preparavamo la puntata di quest'oggi di Nessun Luogo è Lontano, mi tornavano in mente delle frasi che una fonte molto molto autorevole che lavora in Colombia da parecchio tempo mi ha detto del paese. Ha sempre ripetuto: niente è come sembra e quelli lì, lascio a voi intendere, fanno quello che gli pare. È inutile anche andare lì a scavare, fare inchieste giornalistiche, è un altro mondo, vigono regole completamente diverse e forse queste regole totalmente distorte sono costate la vita a Mario Paciolla. Noi in questa nuova stagione in Nessun Luogo Lontano continueremo a battere su questo dossier, perché è giusto che anche la politica italiana si muova, perché sia fatta giustizia, è giusto che si conosca la verità su quello che è accaduto, così come sta facendo una nostra collega colombiana che pubblica regolarmente, la Duque, su El Espectador, quelle che sono le novità sul caso Paciolla. La denuncia di El Espectador circa fughe di notizie e fughe di informazioni nella missione di verifica delle Nazioni Unite in Colombia sta creando grande scalpore in tutti gli ambienti politici e militari, soprattutto riguardo a una documentazione, a un report che aveva stilato anche proprio Mario Paciolla, preparato da San Vicente del Caguán, rispetto a all'attacco fatto dai militari governativi contro un accampamento di dissidenti delle FARC. Mario Paciolla aveva partecipato alla raccolta delle informazioni per questo rapporto. Parte della documentazione, badate bene, è trapelata dalle fonti ONU al senatore Roy Barreras, quindi da fonti ONU interne. Questo rapporto, che doveva rimanere riservato, forse non tutti sanno che nei rapporti interni vengono anche citati magari i ricercatori, gli analisti, ma poi per ovvi motivi di sicurezza quel rapporto viene firmato semplicemente ONU, questo per tutelare chi lavora sul campo. Ecco, una sorta di bozza di quel rapporto, quindi con ancora le firme e i nomi, è finito sul tavolo di un politico colombiano, Roy Barreras. Quest'ultimo ha utilizzato quel documento durante un'inchiesta il 5 novembre scorso, che ha portato poi alle dimissioni del ministro della difesa Guillermo Botero. Barreras, presidente della Commissione per la Pace del Senato, ha negato il fatto e ha descritto le rivelazioni come false e dolose, affermando che danneggiano il coraggioso e rispettoso compito della missione in Colombia. E sentite però la risposta di un altro senatore, Gustavo Petro, che ha detto: le prove indicano che Mario Paciolla, funzionario italiano delle Nazioni Unite, è stato assassinato da agenti statali. La senatrice Sandra Ramirez del partito FARC ha assicurato che la morte dell'italiano è avvenuta nell'ambito di un evento che genera mancanza di protezione per il personale della missione e ha affermato suicidio o molti dubbi. Rispetto a questo articolo, a queste rivelazioni di El Espectador, la missione ONU tace, soprattutto appunto per la consegna di queste informazioni sensibili e riservate. Aggiungo qualche tassello qua e là, siamo quasi in chiusura. Pare anche che alcuni funzionari dell'ONU abbiano sostanzialmente ripulito quella che era la scena del crimine, proprio prima dell'arrivo delle autorità colombiane. Troppe ombre e poche luci, e proveremo in questa stagione a gettarne qualcuna. Intanto i titoli di coda. You're fired. You're fired. You're fired. che prevedono i ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. A voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.